Passiamo al primo brano che ci fa ascoltare La forza mia. E chi è che non ha la forza? E Dani, perché non mi tira sul cursore. Bene, dai, Radio Live Station, partiamo con l'italiano. Aprire gli occhi e ritrovarti qui è come aprire una finestra al sole, è l'emozione del salto nel vuoto che mi porta da te. Aprire gli occhi e ritrovarti qui è risvegliarsi mani nelle mani, un bacio ad acqua salata che ancora più sete di te mi dà. Quando tutto sembrava ormai spento nel mio mondo cercavo te. Quando tutto sembrava finito guardando il fondo, invece ho sentito che tu sarai la forza mia, la mia strada, il mio domani, il mio sole, la pioggia, qui, lasciarsi andare sotto il temporale, sentire come mi manca il respiro se i tuoi occhi accendono i miei. Quando tutto sembrava ormai spento nel mio mondo volevo te. Quando tutto sembrava finito guardando il fondo, invece ho sentito che forza mia, la mia strada, il mio domani, il mio sole, la pioggia, il fuoco e la goccia dove io mi tufferò. Tu sarai la forza mia, il mio gancio in mezzo al cielo, il colpo al cuore. È stato il vincitore di Sanremo 2009. Bene, allora io vi avevo annunciato che avremmo fatto un giochino. Il giochino si tratta di praticamente noi vi metteremo dei brani, voi dovete individuare il titolo del brano e chi vince il premio, vabbè, adesso lo posso dire, e sarà invitato qua a visitare gli studi di Radio Live Session. Quindi allora da adesso in poi i brani non saranno più annunciati, ma bensì dovrete indovinare voi il brano. Qui Radio Live Session, Marco è andato via perché si è andato a fare un giro, ci ha lasciato solo qua da soli io e Dani. No, stasera siamo io e Dani, cioè Gianni, a tenervi compagnia qua su Radio Live Session. Che rumore fa la felicità? Come opposti che si attraggono, come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme, sopra il male, sopra il bene. Ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano. Corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Che umore fa la felicità? Mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano. Quanti spigli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle. Ma amo il sole dei tuoi occhi neri, più del nero opaco dei miei pensieri. E vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri. Insieme la vita, lo sai bene, ti viene come viene, ma brucia nelle vene, e viverla insieme è un brivido, è una cura, serenità e paura, coraggio ed avventura, da vivere insieme, insieme, insieme, insieme a te. Sbattono come mosche in un barattolo, con le ali ferme senza vento, bestemmiando al firmamento. Mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta, appassisce lentamente la coscienza della gente. Che rumore fa la felicità? Che sapore ha quando arriverà sopra i cieli grigi delle città che fingono di essere rifugio per le anime. Corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore. Che amore fa la felicità? Insieme la vita, lo sai bene, ti viene come viene, ma brucia nelle vene, e viverla insieme è un brivido, è una cura, serenità e paura. Siamo ascoltati anche questo brano, Che rumore fa la felicità, visto che comunque nessuno l'ha indovinato. Vi ricordo sempre il giochino, praticamente non annuncerò i titoli dei brani, se chi indovinerà comunque il titolo del brano avrà così questo premio, una visita qua negli studi di Radio Live Station. Vi ricordo anche che il 4 di luglio ci sarà la festa di Radio Live Session, dove siete comunque tutti invitati. Ci saranno delle cose molto eclatanti, partendo, vabbè, devo dire di nuovo le cubiste, perché dovete capire che io e Dani abbiamo visto un po' di foto, quindi siamo rimasti un po' così stupefatti. Bene, io vi ricordo sempre qua www.radiolivestation per ascoltare la radio. Adesso ne approfitto per salutare un po' di persone, soprattutto i miei cugini, che io sono andato a fare così le vacanze in Calabria. Vi dico, sono terre fantastiche. Pensate un po' solo che al mattino mi sedevo al bar a prendere il caffè e avevo più o meno 1,5 chilometri alla Sicilia, un panorama fantastico, un mare con bandiera blu e dir poco. Io gli darei qualcosa in più. Bene, e come vi dicevo, la festa che ci sarà il 4 di luglio, dove ci saranno parecchi eventi, dove sarà comunque pubblicizzata. E anche un'altra cosa di cui dobbiamo parlarvi, che in questi due mesi avete ascoltato tutte trasmissioni sperimentali. Da settembre Radio Live Station passerà 24 ore su 24, dove potrete ascoltarci sempre, sempre, sempre, soprattutto Dani con la chitarra. Cosa ci canti stasera? Ok, andiamo avanti col prossimo brano, va, facciamo che far andare, che far così. Le 6:26, ci sono notti in cui non sai dormire, e più lo chiami e più Morfeo dice non ce n'è. Scendere per strada in cerca di una birra e poi trovarsi a raccontare a una puttana tutti i tuoi perché. Sembra anche felice, molto più di me. Ma se ti piace nascere al tramonto, puoi dormire insieme a me. Guarda un po' dove ti porta la vita. In questa notte sbagliata la birra è finita, se ma tu puoi essere. Spazio tu sei l'astronave, perderti nei vicoli, domani non svegliateci, c'è la luna da esplorare, la stella polare dov'è? E se ti piace nascere al tramonto, puoi dormire. E se ti piace nascere al tramonto, puoi dormire. Se ti piace nascere al tramonto, puoi dormire insieme a me. L'ho scoperto Bene, ci siamo ascoltati anche Cesare Cremonini, le 6.26. Stasera sto facendo una carrellata sui successi 2008 e 2009, penso ve ne sarete così accorti. Bene, allora, sul prossimo brano voglio salutare Nella, Valentina e Nino Spiri Gonzales. E un bacione caro con tanto affetto da parte mia. Poi salutiamo anche Felice, Mimmo, Luigi, Marinella, Lucia, Enza, Katia, Rosi e Nico. E questi sono i primi saluti. Io vi ricordo sempre comunque qua che abbiamo anche la chat qua in Radio Live Station. E potete entrare sul sito, schiacciare il player della radio e sotto vi apparirà poi la chat dove potete scrivere i vostri commenti, soprattutto se vi piace il programma che sto conducendo qua insieme al mio carissimo collega Dani J, dove vi tiene compagnia anche con gli anni 80. Bene, bando alle ciance, ascoltiamo il prossimo brano. Forse bastava respirare, solo respirare un po', fino a riprendersi ogni battito e non cercare l'attimo per andar via, non andare via. Perché non può essere abitudine dicembre senza te. Chi resta qui spera l'impossibile. Invece no, non c'è più tempo. Ci siamo ascoltati anche Laura Pausini, invece no, l'avete riconosciuta. Vi ricordo sempre il nostro giochino, chi indovina il brano, lo diciamo ugualmente sempre alla fine, però chi indovina il brano all'inizio così può vincere una visita qua nei nostri studi di Radio Live Session. Allora, sul prossimo brano c'è da salutare, saluto le commesse e le barriste dell'Auchan. Poi volevo salutare un po' di colleghi di lavoro che mi dicono non ci saluti mai. Allora, in particolare salutiamo Daniela, le due Stefanie, Cristina, Paola, Alessandra, Chiara, eccetera, perché sono talmente tanti che non li potrei mai citare tutti. Quindi un saluto esteso da parte mia. Bene, partiamo con il prossimo brano. Vi ricordo sempre, siamo qua su Radio Live Session. Digitate www.radiolivestation.com. Entrate nel player della radio, vi ricordo sotto che c'è la chat, come diceva prima poc'anzi nella trasmissione degli anni 80 Danny J, scriveteci, vogliamo sentire i vostri pareri, più che tutto leggerli. Semplicemente perché questo amore mi taglia nel petto e poi va dritto al cuore, affondano in lacrime i miei pensieri, è forte il bisogno che ho di amare te. L'amore che io ti darò fa volare più in alto del manto di nuvole che copre il sole, e ti raggiungerò e sarò nel vento che fa incontrare del mio sentimento. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà preziosi desideri che stretti ammetterò, poi ti racconterò. Così per sempre sarai il fuoco che mi fa bruciare. Sei la lente che accende per me ogni colore. L'amore che io ti darò fa vibrare i nostri due corpi al ritmo di un unico cuore, e ti raggiungerò e sarò nel vento che fa incontrare ogni attimo del tuo tempo. Bene, io vi ricordo che comunque stiamo prendendo anche dei brani così a casaccio per rendere il gioco un pochettino più complicato. Questo brano l'ha scelto Dani, dice che non è vero. No, io vi dico, prendiamo nel cestino così a caso ogni tanto qualche brano per rendere il gioco un pochettino più difficilotto. Bene, lui era Scanu, Valerio Scanu, che ci ha fatto ascoltare un brano, Sentimento, e non l'avete indovinato. Adesso partiamo col prossimo brano e vi ricordo sempre Radio Live Session. Pensieri miei, volvere come Bene, lasciamo anche questo brano, Gli anni del Malto, lui era Molteni. E volevo salutare sul prossimo brano Elisabetta e Laura. E, qui sono due lauree. Sì, saluto anche l'altra Laura che è una carissima radioascoltatrice. Ciao Laura. E dedichiamo questo prossimo brano e tra l'altro noi, io vi ricordo che siamo sempre qua da quel di Torino per tutti gli amici che ci ascoltano in giro per l'Italia e per il mondo. Stasera a Torino c'è un'ottima serata con un bel venticello fresco. Sì, sì, qua tra un po' ci mettiamo il giubbotto. Va bene, andiamo avanti col prossimo brano e abbiamo salutato tutti gli amici. Radio Live Station. Non è mai facile un ritorno, non è impresa da niente. Ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te. Capire il vento, la ragione, il momento, spogliarsi di ogni certezza, inseguire un canto, anche se per gli altri sarà follia. Ad occhi chiusi io riconoscerei la mia prima volta, tra quei sorrisi e quella sincerità, il mondo era mio. Quella minestra calda quanto mi manca, essere il primo a tutti i costi, davvero stanca. Voglio respirare poesia, la mia. Ancora qui per dire di sì ai miei sentimenti, con l'onestà di chi non ha mai parato con te. Abbracciami adesso, perché è tempo di noi, io non ti ho scordato, non l'ho fatto mai. Una domenica diversa da qui, talmente lontana, era un appello che forse per noi non tornerà più. I miei pensieri in volo dalla finestra e diventavo un pianeta, quella mia stanza. Se il coraggio un premio non è, cos'è? Ancora qui per dire di sì, riaccendere i sensi, affinché tu non mi veda più diverso da te. Nessuna dogana per noi, né ieri né mai. Ecco il mio indirizzo, torna quando vuoi. Anche se l'hanno umiliata, brutalizzata, c'è ancora qualche cosa di me. In ogni latitudine c'è qualcosa per cui ritornerei da te. Abbiamo lasciato così Renato Zero, ancora qui con noi su Radio Live Station. Io volevo salutare anche tutti gli amici del social network, nonché Facebook, adesso i nomi non me li ricordo, cioè portate pazienza, Ma siete tanti, siete troppi, ho salutato un po' di persone stasera, i saluti vanno comunque sempre estesi a tutti da parte mia. E vi ricordo l'appuntamento del 4 luglio con la festa che comunque sta organizzando Radio Live Session. Bene, andiamo avanti col prossimo brano. Il falco e la quercia, ali e radici, la mia anima divisa a metà. Sai che un giorno o l'altro, lo sai che partirò. Chieder quando, perché questo non lo so. Ascoltati così l'ultimo di Eros Ramazzotti, Ali e Radici. Vi ricordo sempre comunque che stiamo facendo questo gioco. Chi indovina il brano, noi annunciamo sempre il titolo a fine brano, però chi lo indovinasse può visitare gli studi di Radio Live Session. Prima mi avete colto un po', cioè soprattutto Danny J mi ha colto un po' in defiance perché mi stavo mangiando le ciliegie. E su questo volevo così ringraziare Laura e mandargli un bacione. Thank you. il re richiama troppo. Sono il re di chi perdona, che sia animale o cosa, sbagli e accusa di persona. Sono il re di chi ama e basta, e di chi non abbandona. Sono il re della pazienza, ce l'ho in testa la corona. E se mai dovessi andarmene tu, quando parlerai di me, che non conto mai le ore, perché il mio lavoro è aspettare, ti ricorderai di me. Perché amore, amore è andato e non me ne ero accorto io, il re di chi ama troppo. Il solo affetto, sono il re di ciò che ho detto, condannato dal difetto di chi pensa sempre nero, solo perché ama per davvero. Quando parlerai di me, che non conto mai le ore, perché il mio lavoro è aspettare, ti ricorderai di me. Perché amore, amore è andato e non me ne ero accorto io, il re di chi ama troppo. Sono il re dei troppi errori, dei pensieri messi fuori. Sono il re della distanza, sono il re di te e di me. Sono il re di chi lo dice, ciò che sente. Sono il re del tuo ricordo buono a niente. Sono il re di chi si avrà per sempre. Allora abbiamo ascoltato il re di chi ama troppo e qui si mangia. Allora auguriamo a Marco una buona, no, digestione no, perché deve ancora iniziare. Buon appetito Marco. Bene, io vi ricordo comunque sempre qua a Radio Live Station, vi ricordo l'appuntamento del 4 luglio, la festa che sta organizzando appunto Radio Live Station. Bene, allora neanche su questo brano c'è stato nessun vincitore, andiamo avanti col prossimo brano. Mille una notte in più non faranno mai quest'attimo dove sei. Mille luci sopra il blu, guardo dentro la penombra dove sei. Vicini noi, vicini noi, lontani. Facciamo abat-jour. Non vedranno mai quell'attimo dove sei. Io non ci ho pensato più, ma non passa mai quell'attimo. Bene, ci siamo così ascoltati anche Gianna Nannini, un attimo, siamo sempre qua a Radio Live Session. Adesso ci ascoltiamo così il prossimo brano e ricordiamo ancora l'evento di appunto Radio Live Session, la festa del 4 di luglio. Cielo, cerco te, distrattamente guardo il cielo e cerco te, e mi sollevo. Cuore avrò, io mi difenderò. Quando guardo il cielo, cerco te. Distrattamente guardo il cielo e cerco te. E mi sollevo. Sulle circostanze il tempo scivola. Sceglie la sua lacrima. Dove cercare ancora e fare a meno di te. (Susurra) Bene, ci siamo così ascoltati anche per fare a meno di te, era Giorgia. E la serata così si prospetta ancora con questa magica musica italiana da Radio Live Station. Cosa c'entra questo cielo lucido che non è mai stato così blu e che se ne frega delle nuvole mentre qui manchi tu. Pomeriggio spompo di domenica, come fanno gli altri a stare su? Non arriva neanche un po' di musica quando qui manchi tu. E adesso che sei dovunque sei, chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere. Cosa c'entra quel tramonto inutile? Non ha l'aria di finire più. Ci tiene a dare il suo spettacolo mentre qui manchi tu. Così solo da provare panico, e c'è qualcun'altra qui con me. Devo avere proprio un'aria stupida, sai com'è. E adesso che sei dovunque sei, chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere. E adesso che sei, giovane, non mi cambia niente la TV, e che tristezza che mi fa quel comico quando qui manchi tu. E adesso che sei dovunque sei, chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere. E adesso che sei dovunque sei, ridammi indietro il mio pensiero, deve esserci. Thank you. Bene, così sfumiamo anche questo brano. Il mio pensiero era Ligabue. Io vi ricordo sempre che comunque se volete scriverci in chat dovete andare comunque nel sito www.radiolivestation.com, aprire il player, sotto c'è la chat, dovete fare il login per registrarvi e così potete scrivere i vostri pareri e via dicendo. E soprattutto ci interesserebbe sapere anche, come ha detto Danny J, inizio trasmissione, se la musica che vi stiamo così facendo ascoltare è di vostro gradimento. Bene, con questo detto questo, poi siamo quasi in diretta d'arrivo perché sono le 21.55 all'incirca e saluteremo poi tutti sul prossimo brano. Vi ricordo sempre qua Radio Live Station. Bene, prima ho detto le 21, invece siamo già alle 23. Scusate, ma qua l'orologio, e poi è colpa di Danny Jane, sempre sbagliato. E voglio fare i complimenti soprattutto a Marco, che è comunque il direttore della radio. Io vi ricordo che siamo sempre in fase sperimentale, che da settembre passeremo poi 24 ore su 24 e potete ascoltare così i vari programmi di Radio Messaggio. Bene, chiudiamo il programma, saluto tutti veramente perché sono tantissimi, io i saluti li mando estesi proprio a tutti e vi ricordo sempre per fare gli interventi, volete scriverci in chat, dovete registrarvi, fare il classico login. Ok, buonasera a tutti, alla prossima con Dani J e Gianni.